Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Secondo tema di questa settimana insieme all'Associazione Difesa Consumatori di Mestre, ritroviamo il presidente Carlo Garofolini. Ciao Carlo. Ciao Amico, ciao a tutti gli ascoltatori. Utilizziamo un'espressione per dare il titolo a questa puntata che è vecchia purtroppo, ma è sempre attuale, ed è la fuga dei cervelli, i nostri cervelli italiani, giovani bravi che si impegnano, che studiano, ma che qui purtroppo a fatica riescono a trovare spazio. Purtroppo sì, Nico, è un argomento diffuso e noto un po' a tutti, però certamente i dati che vengono diffusi ogni giorno, in particolar modo in questo periodo, soprattutto conseguentemente alla crisi, sono dati veramente che fanno riflettere, soprattutto anche perché abbiamo notato dei dati che i giovani che tendono ad andare all'estero, quindi a fuggire dall'Italia, non sono più giovani, tra virgolette, perché nati anagraficamente non molti anni fa, ma soprattutto sono giovani che possono essere considerati più ragazzotti, anche di età superiore ai 30-40 anni. Eh sì, una situazione che è dovuta evidentemente alla crisi, al fatto di non riuscire a trovare lavoro nemmeno in forma temporanea, e ce ne sono che partono magari per periodo di studio, per lavoro studio, come giovani alla pari, si usa ancora questa espressione. Destinazione cos'è? L'Europa prevalentemente o non solo? Allora, innanzitutto Amico, abbiamo notato che le persone che tendono a migrare tendono a utilizzare dei metodi anche tecnologici più consoni alla scelta, perché mentre una volta si organizzava la fuga con la classica valigia e si partiva, oggi si cerca di almeno pianificarla tramite quelli che sono i mezzi tecnologici, internet, che ormai diciamo tutti tanto poco stiamo o abbiamo imparato ad usare. Poi certamente la fuga che riguarda questi giovani non sguardano come mete solamente l'Europa, ma anzi scopriamo che l'esodo drammatico dei disperati si rivolge proprio nei paesi dell'Africa, nel Medio Oriente e soprattutto anche appunto in quelle realtà dove sono anche povere, ed è paradossale come scopriamo che se da un lato notiamo che ci sono dei flussi migratori verso l'Italia, dall'altro troviamo che ci sono anche dei flussi che partono dall'Italia e vanno verso questi paesi anche poveri per cercare lavoro. Ormai non si guarda più solo la Germania, ma la Francia, ma si guarda appunto anche mentre abbiamo detto Africa e Medio Oriente, ma c'è anche l'Australia, il Canada e qualsiasi altra dove magari le persone pensano anche di trasferirsi per una vita migliore. Certamente rifletto molto sul fatto che non scopro certamente che l'Italia, e qua lo sappiamo tutti, è il paese più vecchio fondamentalmente del vecchio continente che è l'Europa, ma anche uno dei paesi più vecchi al mondo, ma soprattutto il problema è che in Italia non ci accorgiamo di invecchiare, perché sostanzialmente siamo sempre più vecchi, e così ci accorgiamo che sostanzialmente ci rendiamo conto che a 40 anni ancora c'è gente che non riesce a pianificare il proprio futuro, ma cerca ancora delle alternative, come magari si dovrebbe fare a 20 anni. Aggiungiamo poi che fino magari un paio di decenni fa una persona di 70 anni era considerata vecchia, adesso a 70 anni insomma magari non si è ancora in pensione. Sì, oggi purtroppo i nostri politici qua ce lo hanno certamente rifilato con queste ultime finanziarie, l'età pensionabile ormai non è più definita, una volta c'erano i 40 anni a doverci salvaguardare, oggi addirittura si parla di 42-43 anni, ma poi scopriamo che in realtà non si capisce più quanto è esattamente il periodo, perché qualcuno ha avuto anche l'intelligenza di prolungarci la vita lavorativa commisurandola a quella che è un po' l'aspettativa della vita, quindi sostanzialmente ti mette nella condizione sempre di inseguire qualcosa. Ma poi c'è il dramma che i giovani oggi, oltre a scoprire che sono quelli disoccupati perché scoraggiati, perché comunque non trovano lavoro, perché fondamentalmente questa crisi ha coinvolto anche in quelle che sono queste forme selvagge di flessibilizzazioni i giovani, rendendoli sempre più precari, sempre più scoraggiati, ma soprattutto anche con delle paghe che sono tornati indietro agli anni 80, agli anni 90, rispetto a quelle che oggi sono delle paghe che dovrebbero essere decenti in euro, e questi qua sostanzialmente ormai non vedono più un futuro in Italia. E certamente il fenomeno che questi cervelli, questi giovani, questi laureati, questi diplomati mai vedono come l'estero l'unica meta per poter dare una speranza, un futuro a quella che può essere una loro esistenza e permettere loro di poter pianificare una propria vita, trovare un lavoro e trovare delle soddisfazioni, veramente sta diventando enorme nei numeri rispetto a quelli che una volta era un fenomeno che ci eravamo pressoché dimenticati. Eh sì, il fenomeno dei genitori o dei nonni, addirittura dei bisnonni, se andiamo ad esempio a prima della guerra, anche se le situazioni sociali chiaramente sono molto diverse. L'emigrazione degli anni 50 e 60 era un'immigrazione appunto da dopoguerra, quella degli inizi del Novecento era dovuta a una situazione di estrema povertà che viveva il nostro paese, a differenza delle zone d'oltreoceano. E forse questa generazione di giovani non è abituata ad una povertà, magari anche ad una povertà relativa, come invece succedeva 50 o 100 anni fa. Sì, soprattutto amico, innanzitutto dobbiamo dire che i giovani nel 2012 che hanno migrato sono stati circa 80.000, quindi un dato non certamente trascurabile. Soprattutto, come hai detto te, questi giovani che oggi si possono definire una generazione precaria e disoccupati hanno anche la pecca che sono dei giovani che sostanzialmente poi non scendono più in piazza come un tempo, hanno perso il peso politico, i genitori sono sempre più anziani e si incavolano per questi giovani senza futuro. E da un lato, sai, dopo accadono quei fenomeni, si innescano quei vortici dove poi pensiamo anche nei casi dei scoraggiati, ma anche in molti casi che l'Adico ha trattato di bamboccioni, i genitori stanchi che ormai a 70 anni, 67, 65 anni si trovano a dover fare da badante ai figli, perché comunque i figli non vanno neanche più in cerca di lavoro. Chi ha la fortuna, la capacità di pianificare il suo futuro guardando anche l'oltreoceano o altrimenti in Europa, come abbiamo detto la Germania, ma anche la Gran Bretagna, può ritenersi più fortunato, ma certamente è anche vero che oggi mancano qualsiasi tipologia di intervento volto a stimolare una benché un minima occupazione verso dei giovani, ma non ci sono degli interventi strutturali che possono dare la possibilità a questi giovani di garantirsi un futuro, che non certamente può essere solamente con delle agevolazioni burocratiche per aprire una partita IVA. Eh sì, la strada è molto lunga da percorrere, forse quelli proposti dal governo sono solo i primi gradini di una salita abbastanza lunga. Con questo noi ci fermiamo, appuntamento con l'Adico ovviamente sul sito ufficiale e poi la settimana prossima con altri due argomenti. Grazie al presidente Carlo Garofolini, buon proseguimento. Grazie a te amico, un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci. In collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.